Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Signor Duca, eccellenza, e qui saluti e inchini a destra e a sinistra. Certuni che si tiravano da conto una decina di passi prima di incontrarlo e si scoprivano come al passaggio del Santissimo Sacramento. A palazzo lo stesso andirivieni d'un tempo, elettori, sollecitatori, delegazioni di società politiche che tornavano a ringraziarlo a voce, dopo averlo ringraziato per iscritto, del bene che aveva fatto al paese e ai concittadini. Grazie a lui, la prima ferrovia a cui si era messo mano in Sicilia era quella da Catania a Messina, e il porto aveva numerosi approdi di piroscafi, e la città era stata dotata di numerose scuole, di un'ispezione forestale, di un deposito di stalloni, e un istituto di credito, la Banca Meridionale, stava per sorgere. La sua popolarità toccava l'apice. Alcuni, è vero, gli rimproveravano l'assenza durante i fatti del 62, addebitandola alla paura, e tiravano in ballo le storie del 48. Lo accusavano d'essersi finalmente rammentato del collegio, adesso che, sciolta la Camera, voleva gli riconfermassero il mandato. Ma questi mormoratori erano gli eterni malcontenti, i pochi repubblicani, qualche garibaldino sfegatato, tutta gente che non poteva perdonare al Duca la sua ascrizione al partito di destra. Nelle conversazioni politiche egli difendeva infatti a spada tratta tutta la politica moderata, ora che abbiamo fatto la rivoluzione e raggiunto lo scopo, e celebrava l'azione prudente del governo, dolorava le intemperanze di Garibaldi, biasimava l'agitazione contro la convenzione di settembre, affermava che la Lega dei Buoni era necessaria per salvare la nazione dai nemici esterni ed interni. Più che nei primi tempi della deputazione, faceva colpo mentovando i suoi grandi amici politici. Però non citava più il barone Palmi, e se gli parlavano delle gesta del nipote Raimondo, faceva con le spalle e col capo un breve moto che poteva dir tutto, secondo l'umore dell'interrogante, approvazione, compatimento o biasimo. Subito dopo la pace col principe, Raimondo e donna Isabella s'erano riconciliati con una gran parte degli antichi oppositori. La cugina Graziella, specialmente, s'era messa a difenderli con maggior calore dello stesso Pasqualino, dimostrando che la passione è cieca, che gli uomini sono fatti di carne e le donne pure, e che la colpa di tutto quel che succedeva andava attribuita tutta alla leggerezza, per non dir altro, della Palmi. Ed egli cominciò a far spese pazze per metter su una casa, volle che il matrimonio si celebrasse con la massima pompa, quasi sfidando chi prima aveva sostenuto impossibile la riuscita della sua impresa. Peccato che la cugina Graziella, la quale aveva tanto contribuito a questo effetto, non potesse goderne anche lei, poiché suo marito, pochi giorni prima, aveva preso un raffreddore che pareva all'inizio una cosa da nulla, ma che giusto la notte degli sponsali degenerò in polmonite e 3 giorni dopo lo ammazzò. Tutti gli Uzeda furono da lei in quella dolorosa circostanza. Il principe, specialmente, nonostante l'abituale freddezza, mostrò di prendere molta parte al dolore della cugina. E gli altri? E le altre? Infatti, dove metter Lucrezia? La pazzia di costei era andata tutta al rovescio. Dopo aver fatto cose dell'altro mondo per sposare Giulente, adesso, a poco, era arrivata quasi a disprezzarlo. Gli dava dell'asino a tutto pasto. Non poteva soffrire la sua politica che prima l'aveva accesa. Gli diceva sul muso: «A pur da tornare Francesco II che vi legherà tutti quanti!» E la metamorfosi di Ferdinando? Pareva che la passione per il podere delle ghiande non potesse finirgli mai. Un bel giorno le aveva piantate. Aveva lasciato in asso tutti gli esperimenti agricoli e meccanici e se n'era venuto a stare in città. Thank you. Il duca pontificava. Aggiustava l'Europa in 448, le finanze italiane in men che non si dice. E Giulente stava a udirlo come il messia, lasciandosi rimorchiare sempre più, disertando il suo partito per corteggiare lo zio, aspettando di prenderne il posto. Il duca, infatti, gli aveva detto: «Quando sarò stanco, lascerò a te il collegio». E questa era la segreta brama di Benedetto: essere deputato, mettersi nella grande politica. Quantunque il Parlamento fosse in piena sessione, egli non parlava ad andar via, occupato a sbrigare i suoi affari. Il patriottismo gli era costato, per sussidiare i perseguitati, per comperar fucili e cartucce, per offrire rinfreschi alla Guardia Nazionale, aveva fatto qualche debituccio, ipotecata la sua magra proprietà, ora la rimetteva in ordine. Dove trovava i quattrini? Dicevano che spartisse negli appalti fatti accordare a Giulente zio. Ma quei guadagni, quantunque grossi, non potevano bastare alle grandi operazioni che disegnava. Fondata la Banca Meridionale di Credito e di Depositi, aveva sottoscritto per 100 azioni di 1000 lire l'una. È vero che non aveva pagato se non un quarto, ma nello stesso tempo egli parlava di una grande compagnia di navigazione a vapore, di una società per la lavorazione degli zolfi e di un'altra per il taglio dei boschi etnei. Con l'economia del suo largo reddito, il marchese faceva ogni anno qualche acquisto. Ultimamente aveva comperato una villa al Belvedere per stare a casa propria durante la villeggiatura e gli era rimasta tuttavia una sommetta della quale non sapeva che fare. Era troppo esigua per comprare una proprietà, darla a mutuo non voleva. Che cosa bisognava farne? Acquistarne rendita pubblica, gli aveva consigliato il duca, spiegandogli l'eccellenza dell'impiego, offrendogli di farla venire da Torino. E la sera che annunziò a palazzo l'acquisto, bisognò sentire Don Blasco. Pezzo di pagliaccio! Anche tu! Con l'Italia anche tu! Ma sei impazzito anche tu! Chiara, preso in disparte suo marito, gli disse: «Non dar retta a quel pazzo! Tu hai fatto benissimo! Comprane un'altra!» E dopo un poco lo condusse via, prima che la società si sciogliesse, come faceva da un pezzo, senza che si sapesse la ragione della sua gran fretta di tornare a casa. La ragione era questa: che Rosa Schirano, la nuova cameriera da lei presa a Federico, un bel pezzo di ragazza della piana, bianca e rossa al pari di una mela, era incinta per opera del marchese, e invece di cacciarla via, ella non capiva in sé dal contento. Questa era anzi la segreta speranza che l'aveva indotta a metter tante fresche ragazze a fianco del marito. Poiché voleva un figlio di lui e non era buona di farlo, s'accontentava di quello di un'altra. Le pareva naturalissimo circondare di cure quest'altra che Federico aveva fecondata. Quasi la invidiava. Ma il più bello era che il marchese si seccava e si vergognava anche un poco di quella paternità clandestina. Don Blasco e donna Ferdinanda già cominciavano a fare anch'essi i loro commenti. Ma quando Rosa Schirano partorì al marchese un bel figlio maschio, bianco e rosso, grosso e grasso, la nuova guerra tra gli Uzeda divenne generale. Chiara, fuori dei panni dal piacere, riprese vicino a sé la cameriera, le cercò una balia, diede al piccolino tutto il corredo preparato un tempo per i suoi propri figli. Lo teneva mattina e sera in braccio, lo dava a baciare al marito dicendogli: «Guarda com'è bello, ti somiglia, eh?» E tutti e tutte, giovani e vecchi, fratelli e sorelle, zii e nipoti, ricominciavano a buttarsi addosso, volta per volta, l'accusa di stravaganza, di ossessione e di pazzia. We'll be right back. Teresa, adesso vicina ai 12 anni, formava l'orgoglio della principessa per la bellezza della persona e la bontà dell'animo. La vigilia dei defunti, tutti gli anni, la famiglia recavasi nelle catacombe dei Cappuccini a visitare gli avanzi della principessa Teresa per ordine del principe, il quale, dal canto suo, restava in casa per paura che la vista dei morti gli portasse iettatura. La bambina tremava da capo a piedi. Quasi in tutte le chiese, del resto, ella aveva un senso di fredda paura. Alla Madonna delle Grazie c'era tutta una parete piena di voti, gambe, teste, braccia, mammelle di cera, sulle quali erano dipinte orribili piaghe paonazze. Ai Cappuccini, nella cappella della Beata Rimena, vedevasi la bara dove custodivano il suo corpo. Dicevano che si conservasse così fresco dopo secoli, come se ella fosse spirata da un'ora. Ad ogni centenario della beatificazione scoperchiavano il feretro. Ella pensava con terrore che fra 12 anni, nel 1876, sarebbe capitato il terzo centenario. Ma poiché faceva sempre forza a se stessa e niente traspariva delle sue paure, e la vedevano stare lunghe ore in quelle chiese, inginocchiata, pregante, tutti lodavano la sua pietà. Alcuni dicevano perfino: «Cresce come la beata, santa, come lei!» Consalvo non aveva lo stesso carattere della sorella, tutto al contrario. Ma la principessa, scusandolo, lo esortava ad essere buono. Le esortazioni della mamma non avevano molto frutto. Sperato invano di tornare a casa per i torbidi del 62, egli aveva visto passare gli anni uno dopo l'altro, senza che il padre mantenesse la promessa di toglierlo dal noviziato. Così rodeva il freno, aspettando la primavera e l'autunno, che lo ritrovavano ancora in quella prigione, smaniante, irrequieto, buttato a un tratto col partito dei liberali nella speranza della soppressione dei conventi. La signorina Teresina in collegio. Nella corte, tra la parentela, la notizia appena risaputa fu commentata in mille modi. E perché? Non sta bene in casa? Il duca ha voluto così. E che c'entrava il duca? No, è stato il principe. No, la cugina. La principessa piange da mattina a sera. Ciascuno diceva la sua. Qualcuno soffiava che forse la decisione era stata presa perché un giorno la signorina, entrata inavvertitamente nella sala rossa, aveva trovato il principe e la madrina in troppo intimo colloquio. Ma Baldassarre, col suo tono d'autorità che troncava tutte le chiacchiere, dava la versione schietta e genuina. Tutte le grandi famiglie di Palermo e di Napoli, al giorno d'oggi, stilano di mettere le signorine in collegio, nei collegi a chic, dove imparano la lingua italiana e anche la francese. La bambina, nel congedarsi, piangeva dirottamente dal dolore di lasciare la sua casa, di entrare nel collegio di Firenze, tanto lontano, dove neppure la domenica, neppur dietro a una grata, come a San Placido, avrebbe potuto vedere la sua cara mamma. Poi partì anche il cavaliere Don Eugenio per Palermo. Comunque andasse la cosa, fatto sta che partite tutte queste persone, la pace tornò a regnare in famiglia. Ora, un giorno, che fu giusto il 31 dicembre 1865, Baldassarre corse ad una chiamata del padrone, il quale era nel proprio scrittoio in compagnia del notaro. «Accompagna il notaro dal signor Marco e consegnagli questo biglietto», gli disse il padrone. Leggendo il biglietto, le mani e le labbra tremavano al signor Marco, come se gli stesse per prendere un accidente, e Baldassarre, impaurito, si tirava un poco indietro, pronto a chiamar soccorso, quando, strappato malamente il foglio, l'altro gridò con voce rotta: «A me il congedo e il notaro per la consegna! Credeva forse che gli volessi portar via i suoi denari, quelli che ha rubato ai fratelli e alle sorelle, o le sue carte e le prove delle sue ruberie, delle sue falsità. Ladro! Ladro, ladrone! E più porco io che gli tenni mano! Mi manda via perché non ha più da spogliar nessuno!» Per la via polverosa, sotto il cielo di fuoco, un'interminabile fila di carri colmi di masserizie. Stridevano le ruote, tintinnavano i sonagli, e i carrettieri seduti sulle stanghe o appollaiati in cima al carico voltavano tratto tratto il capo se uno scalpitar più frequente o un più vivace scampanellio di sonagliere annunziava il passaggio di qualche carrozza. Il castigo di Dio! Tutta colpa dei nostri peccati! Erano più di 10 anni che vivevamo tranquilli. Assassini! Assassini del governo! La povera gente seguiva a piedi carrettelli carichi di 2 magri sacconi e di 4 seggiole sciancate, e nelle brevi soste fatte per riprendere fiato, per asciugare il sudore grondante dalle fronti terrose, scambiava commenti sulle notizie del colera, sull'origine della pestilenza, sulla fuga generale che spopolava la città. I più credevano al malefizio, al veleno sparso per ordine delle autorità, e si scagliavano contro gli italiani, untori quanto i borboni. Le donne ripetevano ciò che avevano udito dire dai preti. Il colera era la pena dei tempi peccaminosi. Gli scomunicati non avevano fatto la guerra al Papa. La Chiesa non era perseguitata. E adesso, per colmar lo staio, c'era la legge che spogliava i conventi. La fine del mondo, l'anno calamitoso. Chi avrebbe creduto una cosa simile? Tanti poveri monaci buttati in mezzo ad una via. I luoghi santi sconsacrati. Non c'è più dove arrivare. Queste erano sciocchezze, giudicavano invece gli uomini. I monaci avevano assai scialato senza far nulla, mangiavano a ufo, e i muri dei conventi, se avessero potuto parlare, ne avrebbero dette delle belle. Era tempo che finisse la cuccagna, l'unica cosa fatta bene dal governo. Però tanti santi padri che ce n'erano, costretti a vivere con 1 lira al giorno. E i benedettini, per esempio, avevano di che scialare con 1 lira al giorno dopo aver fatto la vita di tanti re. E i quattrini che si sono divisi? Verso sera, quando l'ardore della giornata si temperò, 3 carrozze padronali, scappanti una dietro all'altra, sollevarono una gran nuvola di polvere dalla città al belvedere. Nella prima c'era il principe di Francalanza, donna Ferdinanda e la cugina Graziella, invitata alla villa perché non poteva andar sola la zafferana, e il principino Consalvo a cassetta, che brandiva trionfalmente la frusta, quantunque portasse ancora la tonaca benedettina, perché suo padre s'era deciso a riprenderlo in casa proprio all'ultimo momento, quando i monaci s'erano dispersi e Don Blasco e il priore avevano anch'essi chiesto ospitalità a palazzo. Ricominciò al belvedere la vita allegra della villeggiatura. Tanto più che l'allarme destato dalle prime notizie della pestilenza si dimostrò presto ingiustificato. In città c'era appena qualche caso sospetto di tanto in tanto. Il principino, lasciata finalmente la tonaca per gli abiti di tutti gli altri cristiani, cominciò a prendersi quegli spassi che aveva sognati. Prima di tutto, con uno schioppo vero, se ne andava a caccia sui monti dell'Ilice o dell'Urna, a sterminar conigli, lepri, pernici e anche passeri, se non trovava altro. Poi faceva attaccare ogni giorno, per imparare a guidare, e il suo calessino divenne in breve il terrore di chi girava per le vie in campagna. Lucrezia, lasciando la villa Giulente, partecipava con la cugina alla direzione delle faccende domestiche. Lei, che in casa propria non metteva un dito all'acqua fresca, veniva a darsi un gran da fare per la vanagloria di riprendere il proprio posto nella casa del fratello principe. Chiara tirava su a Zuccherini il bastardello. Lo vezzeggiava molto più del marchese, il quale provava sempre un certo disagio e una certa vergogna a riconoscere pubblicamente quella paternità, mentre sua moglie quasi se ne gloriava. Thank you.